Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Probabilmente non ci sarà nessuna crisi energetica, la Russia manterrà aperti i rubinetti e tutti ci dimenticheremo della dipendenza pressoché totale dell'Italia dall'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia, fino alla prossima crisi. Però noi di Smart City vogliamo invece almeno provare ad approfittare dell'attualità per tornare su un fronte, lanciando così anche un suggerimento, quello del biogas agricolo, che secondo stime che circolano ormai da un po' di tempo potrebbe contribuire con qualcosa come 9 miliardi di metri cubi di biometano, il 40% di quello che compriamo da Putin. Parliamo di un processo, la fermentazione anaerobica, che è in grado di trasformare gli scarti agricoli in biogas, che è un mix di metano e CO2, e in digestato, ovvero un compost in pratica del letame ottimo come fertilizzante. E tutto questo, più ancora che il mondo dell'energia, sta creando grande interesse nel mondo dell'agricoltura, anche lui un mondo non messo benissimo. Ne parliamo con Stefano Bozzetto, imprenditore agricolo, membro molto attivo del CIB, il Comitato Italiano Biogas. Buonasera Bozzetto. Buonasera. Allora, cominciamo da quello che entra in un impianto a biogas. Bozzetto. Usiamo sostanzialmente tutto ciò che fino ad oggi era un costo o non aveva un valore, come gli effluenti zootecnici piuttosto che sottoprodotti agricoli, e integriamo questa dieta con delle colture vegetali, possibilmente producendo un raccolto per il mercato, per la stalla, e un raccolto per il digestore. Quindi diciamo i reflui zootecnici vuol dire insomma quello che fanno gli animali, la cacca e la pipì, che vanno insieme agli scarti vegetali delle produzioni agricole. A questo voi aggiungete alla bisogna per completare proprio la dieta di questi batteri, no? Di questi organismi che fermentano la biomassa, delle colture dedicate. Quindi c'è un'influenza anche proprio sul modo di organizzare la sequenza delle semine, delle colture. Sì, certamente. La comunità economica europea ci dava dei contributi in passato per non lasciare nudo il terreno durante l'inverno. Ci dava 300 euro a ettaro. Noi oggi invece cosa facciamo? Prima di seminare per esempio una soia estiva che vendiamo poi sul mercato delle commodities agricole, noi produciamo un triticale piuttosto che un l'olietto. In zone dove non c'è zootecnia non lo potremmo fare, avendo il digestore le destiniamo al digestore e poi seminiamo su sodo, cioè sul campo non arato, direttamente la soia. In questo modo continuiamo a fare il fatturato che facevamo prima e ne aggiungiamo uno nuovo, infilandolo in mezzo tra una coltura e l'altra. Però poi voi dite addirittura che come dire, il biogas è una specie di anello mancante che completa il modello anche economico dell'azienda agricola. Perché? Sì, ce lo spiega. Noi l'abbiamo chiamato il biogas fatto bene, che non è un'autocelebrazione. L'agricoltura italiana da decenni sta perdendo progressivamente di competitività. Cioè i ricavi sono sempre più vicini ai costi. Quando e molto spesso sono inferiori ai costi. Certo. Ci sono due voci di costo su cui noi non possiamo farci niente da quando si è sviluppata l'agricoltura intensiva e sono principalmente i fertilizzanti e i combustibili. Entrambi i casi dipendono dal prezzo del petrolio. Per molti anni i prezzi del petrolio, penso agli ultimi anni del secolo scorso, erano bassi e c'era un margine. In 4 anni facendo la soia ci si comprava un ettaro di terra. Oggi i prezzi attuali non bastano neanche 20 anni per comprarsi un ettaro di terra in pianura padana. La digestione anaerobica ci permette, e molti di noi già oggi lo fanno, di essere completamente indipendenti dall'utilizzo dei concimi chimici, utilizzando il digestato che residua nell'attività di digestione anaerobica. E col biometano, cioè col biogas raffinato alla qualità del gas che normalmente troviamo nella rete, riusciremo un domani ad alimentare anche i trattori e tutte le macchine agricole, rendendosi anche in quel caso indipendenti dall'evoluzione del prezzo dei prodotti petroliferi. E poi, per chi ha gli allevamenti, il biogas diventa la soluzione a un problema non banale, perché io ho sentito alcuni dei vostri dire: io posso mantenere in vita l'allevamento ed essere un produttore di parmigiano perché ho l'impianto a biogas. Ma non bisogna avere paura di dirlo, è proprio così, perché il letame diventa un centro di ricavo invece di essere un centro di... Perché c'è una direttiva che impedisce di utilizzare quelle deiezioni animali come concime, diventano un costoso rifiuto da smaltire, invece... È la dimostrazione che oggi sempre più sostenibilità si può coniugare con competitività. Grazie, grazie Stefano Bozzetto. A presto, grazie. Domani l'altra faccia del mondo del biogas, la filiera industriale. A voi tutti buona serata.